cambiato tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto. E sono qui che parlo emozionato, e sono un imbranato. Sono un imbranato. Ciao, come stai? Domanda inutile, ma a me l'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà fuoco. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto. E sono qui che parlo emozionato, sì, e sono un imbranato. E sono un imbranato, oh, sì, ah, ma ti amo.